Intanto i titoli dei quotidiani con le aperture. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre sull'IMU, super aumenti fino all'ultimo, mancano due giorni per i comuni per adeguarsi all'IMU, e il Sole 24 Ore fa sapere che arrivano super aumenti, molti comuni, la maggior parte arrivano al massimo delle tasse possibili, tra poco lo vedremo. Il Corriere della Sera, PDL spaccato su Berlusconi, questa è l'apertura. Per Repubblica, Berlusconi contro Monti, PDL diviso. Il Giornale, il PDL alla conta. Vedete che dunque il tema politico del giorno è questo. L'unità, il PDL sfiducia Berlusconi. Pubblico mette la foto di Berlusconi. Ostaggi. E chi sono gli ostaggi? Sono Gianni Letta, Alfano, Cicchitto, Gasparri e la Meloni. Ritratti in foto. Ostaggi tutti della posizione di Berlusconi. Anche per il Messaggero, PDL diviso sul no a Monti, mentre la Stampa apre su un'inchiesta sui fattori che soffocano l'economia. Il sistema Italia costa alle imprese 2/3 degli utili. Questo è il titolo dell'inchiesta della Stampa. Io voglio partire però con la tradizionale classifica che Legambiente per il Sole 24 Ore fa ormai da 19 anni, il Focus Ambiente, che trovate oggi sul Sole 24 Ore, un'analisi parametro per parametro, le classifiche delle città, edizione numero 19, per la verità un'edizione con un quadro deludente. Fa sapere il Sole 24 Ore. Deludente perché? Perché, come racconta Giacomo Bagnasco, prima di darvi la classifica delle città, c'è poco da stare allegri. Il rapporto ecosistema urbano di Legambiente, Ambiente Italia, giunto ormai alla 19ª edizione, fa emergere che cosa? Che lo stato di salute delle città sul versante eco tende a peggiorare. Eccoci per esempio davanti ad alcuni dati che fanno capire che la situazione non è delle migliori. I responsabili delle indagini fanno capire che c'è il calo dell'uso dei mezzi pubblici, dovuto magari anche ai tagli che rendono meno appetibile l'offerta del trasporto locale. Oppure aumenta un po' ovunque l'inquinamento atmosferico delle nostre città. E ancora i dati sulla raccolta rifiuti, una differenziata che continua a fare passi avanti, ma in realtà c'è una diminuzione nella produzione dei rifiuti dovuta a comportamenti più razionali e virtuosi, oppure semplicemente una diminuzione dei consumi. Le classifiche, vincono Venezia tra le grandi città secondo tutti i parametri che poi sono appunto da approfondire, le potete trovare sul Sole, raggiunge 63,48 punti davanti a Bologna e Genova che sono al secondo posto, Padova, Firenze, Verona, Milano, Torino, Trieste e Roma. Queste sono le prime 10 città secondo questa classifica, città grandi. Tra le città medie invece vince Trento come città più eco tra le medie città, davanti a Bolzano, terza La Spezia, quarta Parma, quindi Perugia, Reggio Emilia, Pisa, Forlì, Udine e Ferrara. Questi 10 primi posti. In coda invece troviamo Catanzaro, Latina, Siracusa e Reggio Calabria. Mentre tra le città piccole, quelle con meno di 80.000 abitanti, vince Verbania, primo posto davanti a Belluno, Pordenone, Mantova e Aosta. Queste le prime 5 posizioni. Vabbè, ma poi se volete scoprire anche qual è la città per esempio più friendly per i ciclisti, è Brescia secondo questa classifica. Oppure nell'uso dei mezzi pubblici al primo posto delle grandi città c'è Venezia. Vabbè, ma lì chiaramente è anche quasi obbligatorio in alcuni casi spostarsi con i mezzi pubblici, i vaporetti. Vabbè, tutti i Focus li trovate sul Sole 24 Ore. La nuova classifica, 19ª edizione di Legambiente e Sole sulle città ecologiche. Mi ha colpito invece l'articolo con cui apre, per questo che leggo adesso il Fatto Quotidiano del lunedì, Impuniti in carriera, ed è un reportage che trovate a pagina 2 e 3 del Fatto, a firma Valeria Pacelli e Ferruccio Sansa, e che riguarda un concorso per dirigenti di polizia dove Scrive il Fatto Quotidiano: abbiamo appreso, sono passati protagonisti del G8 e funzionari con curriculum non immacolato, questori che hanno ottenuto prestiti da un plurindagato, due ex divise condannate con la scorta. Beh, insomma, leggere così il sommario e il titolo c'è da un po' da stare inquieti. Concorso di pulizia, questo è il titolo dell'inchiesta. È appunto un concorso della Polizia di Stato dove, per carità, scrive il Fatto, niente di illegale fino a prova contraria, ma la storia sta diventando un caso perché 54 ambitissimi posti al corso di formazione dirigenziale su 1600 candidati sono andati a persone, alcune delle quali hanno qualche problema. Appena viene pubblicata la graduatoria, ecco che scattano infatti i ricorsi. 26 funzionari selezionati hanno compiuto balzi da gigante, da 100 a 800 posizioni rispetto allo scrutinio dell'anno scorso. Per esempio, in un ricorso viene raccontata la storia di un futuro dirigente condannato in Cassazione a 1 anno e 10 mesi per concorso di causa in omicidio. Il caso riguarda Andrea Calderini, che a Milano nel 2003 uccise la vicina di casa, la moglie, e prima di togliersi la vita sparò dalla finestra ferendo 3 passanti. Il funzionario in questione si era occupato del rinnovo del porto d'armi a Calderini, per questo è stato condannato già a un risarcimento in soldo col Ministero dell'Interno di 750.000 euro. Oppure tra i selezionati anche un vicequestore di punta che nel 2011, stando agli atti acquisiti per il ricorso, si era posizionato 299esimo e poi si è trovato 47esimo l'anno successivo. Niente di illegale, ma appena dopo aver passato la selezione il vicequestore è stato indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di calunnia e falso ideologico. E poi c'è l'ombra del G8, perché tra i futuri dirigenti anche 2 funzionari che erano a Genova. C'è chi ha compiuto un balzo di 314 posizioni entrando in lista dei fortunati. È la persona che la notte dell'irruzione alla scuola Diaz ricevette da Giovanni Luperi le 2 famose Molotov che dovevano provare la pericolosità dei ragazzi massacrati di botte dentro la scuola, ma che poi furono dimostrate un clamoroso falso. Insomma, racconta il Fatto Quotidiano del lunedì, c'è questo concorso, questa selezione per dirigenti di polizia, 54 posti, 1600 candidati, e la graduatoria viene scalata da divise che hanno un curriculum non immacolato, secondo il Fatto e secondo un ricorso presentato. Tra questi, appunto, persone che hanno presentato, che hanno anche fatto parte del celebre G8 di Genova, impuniti in carriera, questo è il titolo dell'inchiesta del Fatto. Va bene, ci fermiamo 3 minuti e mezzo e siamo subito da voi. Allora, alle 7:33 minuti la notizia politica del giorno. Certamente è ancora, come avete visto dalle aperture di tutti i giornali, la posizione di Silvio Berlusconi, che nel weekend ha fatto questa retromarcia dopo la condanna in primo grado che gli è stata inflitta venerdì, e sabato ha fatto questa conferenza stampa sconfessando un po' la posizione del giorno prima, dicendo: a questo punto devo rimanere per riformare la giustizia. E questa posizione di Berlusconi ha, almeno a leggere i giornali, tutti, vale a dire anche per esempio Il Giornale, quindi molto vicino a Berlusconi, ha letteralmente spaccato il partito. Chi è a favore di questa retromarcia di Berlusconi, questa posizione di Berlusconi, chi invece la giudica pericolosa, e molte delle notizie politiche sui giornali sono legate a questo. Il Cavaliere non vuole cedere, questo è il titolo a pagina 3 del Corriere della Sera, l'analisi di Paola Di Caro. Nulla di ciò che ho detto è da correggere, questa è la posizione di Silvio Berlusconi. È tornato, non ha alcuna intenzione di andarsene, scrive Paola Di Caro, sia tra i falchi sia tra le colombe. Chi ha avuto modo di sentire Silvio Berlusconi nelle ultime ore, tra questi anche Angelino Alfano, ha recepito chiaro il messaggio: non torno indietro, non c'è nulla di quello che ho detto che io debba correggere, questo governo sta sbagliando tanto, non piace ai nostri elettori, non faremo sconti sulla legge di stabilità. E quindi un Berlusconi che soprattutto sulla questione per la quale ci guardano anche dall'Europa con grande attenzione, vale a dire il sostegno o il non sostegno al governo Monti, dice: non ho nulla di cui pentirmi, non cambio nulla di una virgola di quello che ho detto e vedremo ora che fare. Ovviamente si stanno agitando all'interno del partito tutte le varie correnti. Anche Paola Di Caro racconta il lavoro dei consiglieri più stretti come Gianni Letta, Giuliano Ferrara, Fedele Confalonieri, il banchiere Ennio Doris, che sono preoccupati e gli suggeriscono cautela. Ci sono poi Pasdaran del PDL come la Santanchè, sarà nostra ospite alle 8.30. Ci sono le Amazzoni cosiddette di Silvio. Ci sono poi gli ex AN come Ignazio La Russa, che ieri ha detto: vorrei capire se quello che stiamo costruendo è il partito del presente o del futuro, se è quello che mette al centro la giustizia o quello che dice mai più con la sinistra. E dopo le parole di Berlusconi mi sembra che la confusione sia aumentata. Insomma, chi sta zitto, chi è totalmente in silenzio in questo momento è Angelino Alfano, il segretario del Popolo della Libertà, anche se a Medeo la mattina sulla Stampa ne raccoglie una sorta di sfogo, ma siamo sempre nei retroscena della politica, dichiarazioni ufficiali in realtà ce ne sono nulla, anche perché si attende oggi il risultato del voto alle regionali in Sicilia, che certo non è solo un voto della regione, ma anche un voto che verrà interpretato con una valenza nazionale. E allora lo sfogo di Alfano sulla Stampa: i nostri programmi non cambiano, il silenzio è d'oro, scrive Amedeo la mattina. Mai come in questo momento il silenzio di Angelino Alfano sulla bomba Molotov lanciata da Silvio Berlusconi contro Palazzo Chigi è a 18 carati. Lo è a maggior ragione nelle ore cruciali del voto in Sicilia. Si va avanti con gli obiettivi che ci siamo dati tutti insieme. Questo l'unica dichiarazione attribuita ad Angelino Alfano. Certo, noi avevamo prima ospite Mario Adinolfi, che è un deputato del Partito Democratico, che alle 6.30 nel nostro bar di Radio 24 ha detto: io so per certo, l'ho saputo da alcuni ambienti, che Alfano avrebbe detto: Berlusconi mi ha fucilato alle spalle, politicamente parlando ovviamente. Certo, racconta anche Repubblica di un PDL in caos e a rischio scissione. Alfano vacilla, Silvio lo boccia, non capisce la pancia del paese. Questo è attribuito da Carmelo Lopapa a Silvio Berlusconi, tanto che, racconta Repubblica, in caso di sconfitta netta del candidato appoggiato in Sicilia dal centrodestra, vale a dire Musumeci, Alfano sarebbe pronto oggi alle dimissioni. È tutto retroscena della politica, mentre una cosa certa, questa certa, è che Berlusconi va in Kenya, torna ad andare a passare qualche giorno con Flavio Briatore, Lion in the Sun. Questo è il resort di Briatore, dove Berlusconi forse domani partirà per qualche giorno, e il giornale fa notare, come tutti i quotidiani, la coincidenza. Ma come? Proprio domani, in cui il Popolo della Libertà si riunisce per stabilire le regole delle primarie, che si dovrebbero fare, almeno così sembra anche nel centrodestra, proprio domani Silvio Berlusconi che fa? Se ne va in Kenya qualche giorno fino a domenica. Silvio in Kenya diserta il vertice. Questo partito ci fa perdere voti. Questo è il titolo del giornale e il retroscena politico di Adalberto Signore a pagina 3. E pare che Berlusconi abbia detto così: io vado in Kenya, le primarie affare vostro, non sono cosa che mi riguardano, e sono le primarie del centrodestra. Silvio, il giorno in cui si decide se fare le primarie, come fare le primarie, cosa fa? Prende e se ne va in Kenya. Questo proprio a segnare il distacco, la distanza da un partito che non reputa più suo. Dalla parte del governo invece anche qui bocche cucitissime sul sostegno al premier Monti e al suo esecutivo. L'unico che parla pubblicamente, ho trovato sui giornali, è il ministro dell'agricoltura Catania, intervistato da Paolo Festuccia sulla Stampa. L'intervista la trovate a pagina 6, dice: è solo campagna elettorale, sono convinto che il PDL non toglierà la fiducia al governo, anche perché, dice il ministro Catania, finora in questi mesi ha dimostrato grande responsabilità. E quindi dice: è campagna elettorale, si alzano i toni, ma c'è fiducia e cercheremo la mediazione in aula. Interessante anche il retroscena di Repubblica di Francesco Bei, che cerca un po' di sondare l'umore di Monti attraverso dichiarazioni di chi gli sta a fianco. spread e voto anticipato vertice dal Premier, viene attribuita questa frase irresponsabile, un Vietnam sulla manovra. A pagina 3 di Repubblica: aspettiamo di vedere se alle parole seguiranno i fatti, nessuno può essere così irresponsabile da portare l'Italia all'esercizio provvisorio. Questa sarebbe la frase di Mario Monti, definito da Repubblica molto stizzito comunque per questa uscita, per questa conferenza stampa tenuta all'ESMO da Silvio Berlusconi. Tutta la stampa internazionale ha dato ampio e critico risalto alle ultime dichiarazioni di Berlusconi contro il governo, contro la Germania, contro la Merkel, contro il rigore. Tuttavia nessuno a Palazzo Chigi crede davvero che Berlusconi possa far saltare il tavolo. Scrive sempre Repubblica: è una tigre di carta. Questa è la valutazione che consegna un ministro senza peli sulla lingua. Preoccupa piuttosto però il Vietnam parlamentare, cioè questa, come si utilizza questo termine, no? Come dire, una sorta di guerriglia parlamentare a cui potrebbero essere sottoposti fin da domani i provvedimenti del governo. Questa la situazione politica, certo anche a livello internazionale. Il Corriere della Sera con Stefano Montefiori a pagina 8 e 9 racconta un po' la storia dell'idillio nato e poi franato clamorosamente soprattutto tra Berlusconi e Sarkozy. Silvio Berlusconi, che indica in Sarkozy e Angela Merkel i suoi assassini politici, attacca il direttorio Merkozy. Eppure, racconta Montefiori, c'è stato un momento non lontano in cui la scena europea era dominata da un'altra bizzarra chimera, quella che gli osservatori francesi chiamavano Sarko-Berlusconisme, e quindi un'unione molto forte. D'altronde era nata così. A Villa Certosa, già teatro di feste per le quali Berlusconi in Francia è stato infinitamente deriso, nel 2005 ci fu tra gli ospiti Sarkozy, non ancora presidente, che venne a imparare come Silvio Berlusconi era in grado di gestire e acquisire consenso negli italiani. Poi, una volta eletto presidente, poco a poco il distacco. Simpatia, racconta Montefiori, che ebbe anche dei momenti poi di incidenti personali, come quando Silvio Berlusconi disse a Sarkozy in conferenza stampa: beh, io ti ho dato anche la tua donna, riferendosi alla italiana Carla Bruni. Carla Bruni, che qualche mese prima aveva detto: mi vergogno di essere italiana e sono contenta di essere francese, quando Berlusconi fece la battuta sull'Obama abbronzato. Insomma, un idillio che poco alla volta poi scema, finisce, fino poi alle risatine di Sarkozy con la Merkel quando si parlava di Berlusconi, poi una recente intervista anche di Berlusconi che ha detto appunto di questa cafonaggine di Sarkozy che gli ha voltato le spalle. Insomma, una parabola che pare un po' finita. Tra l'altro, riguardo alla condanna di Silvio Berlusconi, il ministro della giustizia Paola Severino, al Corriere della Sera lo ricorda, pagina 3, ha detto che essendo una condanna in primo grado non ha una diretta e immediata conseguenza sulla vita politica di Berlusconi come di qualunque altro politico, perché nel nostro paese vige un principio che è la presunzione di innocenza, perché la condanna, che comporta anche la interdizione dei pubblici uffici, qualcuno ha chiesto: ma allora Berlusconi è ricandidabile? Sì, risponde Paola Severino, perché è una condanna in primo grado. Anche gli editorialisti ovviamente si confrontano. Oggi su Repubblica potete leggere l'editoriale di Eugenio Scalfari, che non è andato in pagina ieri perché ieri Repubblica era in sciopero. Scrive Eugenio Scalfari: non so dire se si stia assistendo a un'opera comica o un'opera tragica. Certo, vedere e ascoltare un personaggio che è stato protagonista della politica e del costume nell'Italia di questo ventennio, completamente fuori di testa, è allo stesso tempo grottesco e preoccupante. Qualche giorno fa l'ex premier aveva dichiarato di rinunciare definitivamente alla candidatura alla premiership. Due giorni dopo sembrò averci ripensato: il popolo mi vuole. Poi aveva di nuovo battuto in ritirata, la sua candidatura a Montecitorio restava un'opzione a Palazzo Chigi. Per Palazzo Chigi avrebbe corso il vincitore di improbabili primarie. Infine il colpo di scena di sabato, scrive Scalfari. Esiste ancora il popolo della libertà e sopporta senza emettere un fiato o muovere un dito una vicenda di questo genere? Dall'altra parte, Giuliano Ferrara, nell'editoriale del lunedì del Foglio, invece Riepilogando anche la vicenda Ruby, nella quale dice: chi non sa che il set di regali fatto da Berlusconi a mezzo mondo, dai grandi della terra cosiddetti alle segretarie e agli amici dei deputati, occupa lo spazio di 4-5 campi di calcio è colpevolmente ignorante. E chi pretende di entrare con occhio etico nella libido degli altri alla sera legge Kant è un puttaniere mancato o realizzato. Questo è un paese in cui una dozzina di scienziati è ritenuta responsabile dei morti conseguenti un terremoto non previsto. E conclude l'editoriale Ferrara: ora per qualche giorno finalmente il cavaliere in Kenya può respirare l'aria di una moderna democrazia. Allora, il Sole 24 Ore apre sulla questione dell'IMU, che riguarda certamente tutti gli italiani. Allora, siete pronti a prendere nota? Non ci sono buone notizie. Le aspettavate? Sapete che da oggi a mercoledì è il giorno ultimo in cui scadrà il termine per approvare i bilanci preventivi del 2012 e dunque i comuni devono stabilire a quanto ammonta l'IMU. Saranno 14 comuni capoluogo di provincia che esamineranno progetti di modifica delle aliquote del tributo municipale, in alcuni casi li approveranno per la prima volta, scrive il Sole 24 Ore, e dunque sono previsti aumenti fino all'ultimo minuto. La metà dei sindaci spinge l'IMU al massimo. Questo è il titolo che trovate a pagina 3. Ve l'avevo detto che non era una buona notizia. Entro mercoledì 14 capoluoghi di provincia su poco più di 100 cambieranno le regole dell'IMU, le adotteranno per la prima volta, come nel caso di Foggia, Frosinone, Caltanissetta, Isernia, Reggio Calabria. Il termine per l'adozione dei bilanci preventivi è prorogato fino alla scadenza del 31 ottobre. E con le ultime delibere, secondo un'analisi del Sole 24 Ore, ma c'è tempo ovviamente fino a mercoledì, 46 capoluoghi di provincia porteranno l'aliquota ordinaria al livello dell'1,06%, che è il massimo. L'elenco dei centri che hanno raggiunto questo massimo è impossibile da contenere in qualche riga. Sono 46 capoluoghi, per l'appunto. Si va da Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli di Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, potremmo continuare, siamo solo alla B, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila. Vabbè, insomma, tanti che arrivano all'1,06%. Ah no, Asti no, per la verità, e neanche Avellino. Comunque tutto l'elenco delle aliquote, quanto arrivano, li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, così se sapete dove abitate, comprate e vedete. Tra l'altro sull'IMO c'è stato l'allarme dei centri di assistenza fiscale, che dicono: non ce la facciamo a gestire tutto questo, i comuni sono ritardatari, c'è un caos sul saldo della prima rata dell'IMU, l'ultima rata va pagata entro il 17 dicembre e dunque serve una proroga, questo chiedono i centri di assistenza fiscale. Manca il tempo, questo anche sulla stampa, IMU da rinviare, oppure sul Secolo XIX a pagina 4, comuni ritardatari, caos sul saldo dell'IMU, staremo a vedere se ci sarà o no una proroga. Mi dite, volevamo le altre buone notizie. Io leggo le notizie che sono pubblicate dai giornali, non è che me le posso inventare. Potessi dire che il Milan ha vinto lo scudetto, lo direi, dall'emozione ho colpito anche il microfono. Ma le notizie sono queste, per esempio, sempre stando sul Sole 24 Ore, per IRPEF e rifiuti fino a 400 euro in più. Questo, secondo un'analisi fatta per il Sole 24 Ore, si spenderà in una famiglia media nel 2012 rispetto al 2011, un 73% in più. Insomma, la stretta dei comuni sulle imposte non si ferma solo all'IMU, ma anche per esempio alle tasse sui rifiuti. In tutto questo, non perdetevi l'intervista che Mario Draghi ha fatto a Der Spiegel, non sapete il tedesco, ma la trovate su Repubblica, non è proprio l'intervista ma un sunto dell'intervista, Andrea Tarquini da Berlino, perché Mario Draghi dice questo: appoggio la richiesta della Germania di dare più poteri all'Unione Europea sul controllo e il veto dei bilanci nazionali dei paesi. Ci vuole, dice Mario Draghi, un super commissario europeo con ampi poteri di controllo e di veto sui bilanci nazionali degli stati membri dell'Eurozona, così come proposto dalla Germania. Questo è l'endorsement di Mario Draghi, il capo della BCE, sulla proposta tedesca. Come dire, affannatevi, fate le elezioni, ma poi sappiate che l'Europa controlla tutto. Com'è che era, insomma, please relax. A che ora dobbiamo chiudere, Peter Biscapè? Ecco, tra un minuto? E va bene, allora c'è tempo tra un minuto di raccontare solo la storia che il Messaggero mette a pagina 15 di un greco, un giornalista greco, Kostas Vaxevanis, che ha trovato una lista. Per carità, lui ha detto non sono gli evasori, 2000 contribuenti greci, è la famosa lista Falciani, ricordate Falciani era quel hacker bancario poi ricercato da mezze procure che si era procurato tutta una lista di persone che avevano i conti all'estero. Questi sono 2000 persone greche che hanno i conti in Svizzera. Per carità, questo giornalista ha detto non vuol dire nulla. Hanno i conti in Svizzera, non dico che siano super evasori. Risultato, è stato arrestato per avere pubblicato questa lista. Poi è stato rilasciato dopo qualche ora, ma comunque arrestato. Devo chiudere? Juve che veleni, il titolo della Gazzetta dello Sport. Negato un gol al Catania, la capolista vince con una rete irregolare. Sai che notizia. Ci fermiamo qui.